cazzo lo sei parlato? Oh, con Babbo Natale! Io non ho sentito nessuno. Forse è arrivato solo da te. Ehi, non c'è nessuno, ci chiama nessuno. Ma presente del sì? No, me lo fanno la luce. Ah, beh, ma ne fai una volta ieri mentre dormito ancora. E allora, ma tu faccio che bene, la barba la luce. Ma sarà, Vediamola per buona, va. E allora, sono fresco come una rossa. Davvero? E allora? Dai. Non ho sentito nessuno, né Luca, né Gigi, né Gidardo, tutti buoni si sono. Quella è un'altra cosa da fare, gatta. Non come noi. Quelli sono giovani, hanno altri pensieri in testa, a filo, lo mette te. E allora, mi sono come a stare in un campo, sempre bene, a destra e a sinistra. E infatti i segamenti non molto da fondo i segamenti. Già si vede tutte sudate sotto la riga. E allora, ma che posso la salita con una mensola e lo sgabuzzino? Al sole ha giubilato le tre baracchine che va giù fuori e l'ha già rubata in una sua mensola. Ma la va l'ha già rubata e l'ha già tappata, io ce l'ho già nel freddo. Ah, così è. E allora, ma mi si deve passare, ha sta messo la baffunilla dalla sua base. Se no anda male la missione. E tu pensi che farla andare bene, pensando a farla andare male, farla andare bene. A chi non pescate sa scrivania, diventare un scabuzzino, mi pongo questa scrivania, non mi ha preso un biglietto che sa più brutto. E tu come devo mettere per forza? Quella mensola che c'è in galassi. Aspetta, diciamo a Tore. Tore! A te, dottore! Chi ci va se correre di bicicletta, gatto, con i cani appresso? Chi se è a calcetta a accompagnare i buzzi in allenamento? Vai! È andato al cinema. Con la pasta al forno. Quello sarà in campagna, ha mangiato favetta di cibrici, dalla pianta. Vai al cinema, grazie. Mi, proprio a te la cuttumenni Gian Maria, ha detto deve essere il lugare la cuttuca che è mossa a culo. Se mi ha visto mai a me, eh? Gian Maria da Vito, correndo a tutto curri, dici che fare in maratonetta. E allora non mi visto, che ne ha tu i cani, ne ho preso. E se già sono passato vicino a casa tua, a buro. E a che ora, a che ora? E sono state le 5, meno 10, meno un quarto. No, all'ora me la metto nella TV. Attende Gian Maria, buonasera. La TV è la bella in rubizzino. Sto visto io. Cosa hai visto tu? Caccia. Ma tu chissà cosa conviene, che se momento si è bastato tutto. Non lo so, guarda che ha riposto un altro, t'ho visto io. Chi sei prima? Presentati. Buonasera a tutti, Babbo Natale. No, sono in ascolto, adesso faccio una cosa. Riprende Gian Maria, avanti. Ciao Mari, stammi bene. Ciao Mari, buonasera, ben sentito. Vedi per lo chef Remi, che si è più zaffarato, a macchia a dritta, dici che tutta la rimanna. A chi credo Mari? Questo sì, è un bel chef. Serve ma niente alla costa, gamberone, spezzati due gamberi, pieni di anghidda, via da Edo. Va bene, to riprende, rimango in ascolto due minuti che mi sto sistemando qualcosa, dai. Aspetta, ciao Marino, ben sentito. Oggi ho mangiato tagliatelle. Ma ti ascolto, Bacchiso, sì. E all'uovo Martina. Grazie. Oh, grazie. Avanti che ti sta chiamando. Sto schiacciando Graziano, mi ascolti. Lo schiaccia, Graziano, l'ascolto. Dammi ascolto due minuti che sto facendo qualcosa, riprendi o va chi? Sì, sono tutti con la buonasera, sono arrivato in garage, metto la macchina a dormire e poi riprendo. E sei bello forte mi bacchi, fortissimo qui a casa, benissimo. Ok, grazie, riprendi, rimango in ascolto e sto facendo cosa, dai. Io mettici la macchina in garage, non la pala basculante. Riprendi Torre. Sì, è Torre, sì. Buonasera, signor Bacchi, faccia a faccia, con comodo. Prenda Giomarino. Salutiamo a Bacchisi, allora buonasera, ben risentito oggi, meno male, è entrato presto a farsi sentire. Allora, oggi non c'era in campagna però Bacchino. Giomarino sta parcheggiando la macchina nel garage, non ti aveva forse fa spento. Ha detto già entra subito, dai, avanti Giomarino. Ah, è già vero che è in garage, dai, entra nella macchina. Già lo sentiamo dopo, dai. Va bene, tu riprendita. Sì, anda bene. Allora muoviti, Mari. In pressa però, Sto facendo una cosa urgente, sto facendo, va. Lasciatemi fare, se no non faccio niente. Avanti, grazie. Eia. Ehi, no, quando è passato un'ora, forse ero sotto la doccia o mi stavo sbarbando, o forse mi stavo facendo i capelli. Ma sta là, a vigre di to. Poco vigrino. Chissà che se la combinente, cazzo. Forse era nell'orto portale, qui innaffiando. No, quello l'ha fatto Paletta stamattina. L'ha abbatti, veri, bianchi, puliti, dalle fogliette secche. Tutto procede. A me mi pare Gian Marie, l'ha innaffiato la moglie a Edo. Ma è pure ci pensata isso, Edo, mi dai pure la bella la bocca, E ho pure ci pensata isso. Mi surai. A me te sono affavidato, va. Se stavo ascoltando a voi cosa stavate dicendo, Adesso sono un bocciolo di rosa. Senti, che maro che? Sì. Lasciamolo dire, lui può dire quello che vuole. Chissà chi sarà. Con le rose vellutate, Marino, diglielo tu che loro non sono intenditori di rose. Con Marino si è assentato, se non sbaglio. Mi ha detto che era all'ascolto, è in zona, è lì, è bicuritendi, Mi ha detto che fanno cosa, bicuritendi, catami che semi. Tu dici così, ma è la cosa, è la bicuritammo, non hai compreso? E ma chi si è contento di la fava in garage, va, a tutti i trentici la macchina. Riprendi, Giovanni. Ok, ti riprendo io. Ma solo sei in casa, grazie. No, se ne sono andato, che si di bolacca, anzula. E va via, due carabinieri, va via. Va a farle compagnia. Davvero? Sì, davvero. Vero, grazie. E mi sono ti rispondi. Non rispondi, Mito. Ci ti raggio di tu. La giovecca do giusto. Per carità, su Graziano, cazzo. Ogni tanto ne combina una, cazzo. Visto dai. Ce ne ha data va. C'era Benelli. No, chi c'era rumena. Atteso, Gian Marì, il carabinieri rumeni vi giova. Vedo un po'. A chi non v'è Paoletta oggi? Mi ha lasciato solo, allora mi ha mandato un po' di compagnia. Sì, due carabinieri ti ha mandato. Leo già è brava, due polacchini e una rumena. La nigeriana un altro giorno. Ma vai, grazie, è finita, vai. Che sei usato moglie, Ioia. Ma ti faccio vedere così. Mica mi ha mandato dammi. Vieni a che non ti crede nessuno. Che tu vuoi gli altri posso dire a Edda? E te, su Giomarino. Da che per il te, di venuto di Edda. Pacco, confezione e regalo. Prendi due, paghi tre e porti via. Ehi, ridi. Ma so che un ridi che c'è un vicino, grazie. Hai visto? Sì, è convenienza, Come te rubani. Ridi, grazie. Non ti rispondi, Alfio, non ti rispondi, eh? Che ormai ha perso. Ma sentiamo chi rientra allora, vai. Vengo subito a te. Sì, sono qua. E allora, dove state andando? Magari che andenni, grazie. Casa è buttato, Gian Maria. Sì, un attimino ha detto. Ehi. Bubu. L'ho acceso poco fa perché era sotto carica questo. Ma mi sai non vedo nessuno, così è. Grazie, Luca, manicomio sarà parato in campagna, sicuramente. Luca Frippe, gioco da me che non lo intendo, Sta di campagnata. Devi smartire tutto questo che sta mangiando, a pacca. Ingrassato, un bea. E tu cosa hai fatto, grazie? Oh, no, è che oggi ho mangiato, mi può già cucinato. Oh, due teste d'agnello, un pezzo d'agnello in forno. Ma con patata a posto. E a prima abbiamo fatto tagliatelle agli spinaci e all'uovo, poi vera cajù, l'antipasto, formaggi, ce ne sono tre o quattro, salsiccia, salamini, salata verde, fumati, un poco di tutto, là. E vitturai, te l'ha già detto io. Ah, ma io non ho mangiato carne, mi ho mangiato, ha fatto i funghi agli e prezzemolo, i cardoncini, e mi ho mangiato quelli lì, là. Hai fatto bene, quelli già sono leggeri, non fanno nulla. Mi ho mangiato un po' di quelle lasagne, il cardoncello e una mozzarella e mezzo panino e boh, e ne ha sbucato pure la mollica là dentro. Sì, andiamo bene, grazie, E no, dove questa giomagnata, a voglia, va? E tanto prima di pranzo ce l'avevo 153 la glicemia. E stamani mi dà via 156. Oh, io non manco misurato un naggio oggi. Non sto più misurando da parecchio. No, io me la misuro perché quello lì vuole la macchinetta. Non ne vuole più quadernino. A chi ha detto lì ci scrivi quello che vuoi tu. E la macchinetta rimane scritto, capito? Non puoi cancellare. Io manco mai, io non le consegno macchietta, anche da dicembre a passare la visita io. Ma me l'ha chiesta lui dall'altra volta, è già due o tre volte mi dà sempre la macchinetta. L'altra volta gli ho detto me l'ho dimenticata, ce l'avevo sul tavolo pronta e me l'ho dimenticata. E se ricorda la prossima, non è macuno. Lui torna indietro, no, e guarda, a sorpresa, tira, no, e guarda, fino al giorno che vai tu. Però lui torna indietro, da quando l'ultimo, dall'ultima visita, capito? E li guarda smalzi così. Mi ha già compreso, grazie. A chi dice, non guarda, non puoi scrivere che su che ti piace, no, che non fuggi nulla, compreso, non puoi cancellare, perché rimane memorizzato. Sì, se vuoi lo cancello io. No, che io ho provato anche a levarne la batteria e a rimetterla. C'è il modo di cancellarlo però. No, non cancella questa macchinetta che c'ho io. Quella lì si cancella dopo un anno tutto quanto. Vabbè, che se voglio io, abbiglio, attaccare il computer e cancellare giù. Boh, chissà, io ci ho provato a vedere pure a corrigio. Non fanno, quella fra un anno si scarica da sola, allora devo sostituire la batteria e riparte da zero, capito? Vabbè, grazie. Non sono tutti precisi i macchinetti, quella che c'avevo prima di questa già li puoi cancellare, era differente però. Infatti quello lì quando me l'ha sostituita mi ha detto questi sono fuori norma, non servono più. E mi la ragazza, ma lo si. Sì, andemmo via, andemmo. E mi aveva dato questo modello. E infatti il primo modello che mi ha dato gli ha detto, ascolti, questa macchinetta segna quello che vuole dire. Ah, così è. Allora mi ha pigliato chi mi ha dato un'altra nuova. E provi questa e vediamo, ma che ha detto, capito? Sì, anda, anda. Ehi, già è non più questo diabetolo con il bacio, non lo butti così, no. Ma... Sì, io ce l'ho tutto a dicembre. A ottobre c'ho la visita cardiologica. Poi, 10 giorni prima di andare da loro, devo andare a fare le analisi, devo andare. Anche io, però mi avevo telefonato, adesso non mi ricordo, forse è per le codopole, che mi aveva detto a ritelefonare, infatti lì devo ritelefonare, perché non ce l'hanno polsi, e devo ritelefonarci per darmi l'appuntamento. Per il cardiologo mi sembra che me l'aveva già dato, per il cardiologo. Per fare le colopre non lo so, bisogna ci guardo domani, al limite ci chiamo domani a vedere. Però normalmente sarà per il cardiologo, ma il cardiologo mi sembra me l'ha dato, in via Zanfarino. Per le colopre non c'era posto, eia. Sì, no, io me l'aveva dato il cardiologo, quello che c'avevo prima, il medico, me l'aveva dato per fare dal cardiologo. Ma già vado e ce l'ho con quest'altro, c'ho la visita il 12 di dicembre. Me l'ho segnato nel calendario, io me le segno nel calendario tutte le visite che devo fare, capito? Ma non me la metto, ma a dicembre mi pare già ne ho anche io visite. Dicembre c'ho anche la Finiti, Alghero, al centro dialisi di lì, devo andare Alghero. Lì vado ogni anno, chissà mi vado ad andare una volta all'anno. Cardiologia? Nella cardiologia? No, al centro dialisi per i reni, Alghero, dalla dottoressa Finiti. Lì vado una volta all'anno, mi fa andare. Oggi compreso, grazie. Quella devo fare le analisi 10 giorni prima e poi devo andare dopo 10 giorni. E vado sempre una volta all'anno, adesso non mi ricordo se a dicembre o a fine novembre che ci devo andare. Me l'ho segnato nel calendario. Sì, andava e anda. Va benissimo, grazie. Aspetta, vedete se è rientrato Bacchisio. Attenzione Bacchisio. Boh, non è entrato. Aspetta 2 minuti. Attento, Tore. Ehi, Abacchi. È entrato, sì. Mezz'ora facendo bibi, bibi. Avete destino veloce, non lasciate spazio. Graziano. Allora, c'è Abacchi. Graziano, colpo di Graziano. Non lo so, colpo di Graziano. Sta a posto, sì. Non la trovo, ma mi sembrava che era qua, invece devo andare. Cosa c'è, Bacchi? Ho detto. Ed è giù, invece. La risposta a breve. Allora, la radio tua, l'hai trovato il sistema di ripararla? Poi mi ha giubilato di radio puttana bassi e si era abbigliato due paesi. A voce funziona bene, a voce funziona, non funziona. Solo in recensione funziona. Allora io l'ho aperta la mia, perché esce bassa. Guardando se c'è qualche trimmer, che cosa, non c'è nulla. Ci sono degli integrati piccolini e piccolini. In più c'è una batteria all'interno. Io sto pensando sia la batteria scarica. Oh, ma chi? No, non l'ho mai aperto e non mi sono combinato mai la briga di aprirlo. Non lo so, quella mamma sa che sia per la memoria quella lì. Una batteria grande c'è, a bottone, e c'è scritto sopra 3 volts. E io non ho detto, ma esce basso, c'era qualche trimmer, qualcosa da regolare, invece non c'è un piffero, nulla, sono integrati in miniatura e boh. Hai fatto tutto in miniatura e fatto. Boh, prova a cambiargli la batteria, a vedere. No, prova a buttarcelo via. E andava. specchio, con questo esce sempre bene, esce. È chiaro. Adesso lo fa, stavo usando no. Vedete che lo nero stavo usando in macchina. Esce più forte di questo. Cos'è, il portatile? È il portatile, questo è il portatile. Questo è lui. Quello 888. No, l'888 ce l'ho in macchina. Ah, l'altro c'hai tu. Questo è il Voxon. Questo è un altro, quindi ne ho tre di quelli lì. Ne ho tre, c'ho quello da 4 centesimi una dozzina, poi c'è l'altro che costa un po' di più e questo che costa un sacco di soldi. Scusate, dai. Ma chi è? Buonasera. Che è Bacchi? Marco, intendo. Ma da qua a me lo sento io, mi sembra sia Andrea. Andrea, tu sei? Ma che tore sotto, eh. Antonello e Bacchi. Ciao Antonello. Sì, ciao Tore, ciao Bacchisio. Antonello, buonasera. Qua è Remi, Antonello, come mai? Perché sto usando il Baofeng in questo momento. Forse... Antonello, in giro sì. No, non sono in giro, sono a casa. Stavo facendo sistemando alcuni videoregistratori che avevo da quel po' di tempo non usavo più. Gli ho cambiato tutte le cinghie, quindi li stavo provando. In quella sono a casa. Ti adatte. E tu sei uscito. Uia. Ma c'ho due stranieri in casa. Due stranieri? E chi c'hai? Il cane si è portato a casa. Oh, e più ce n'ho. C'ho il lupo. Vai tu. Allora, già. E c'è la bella compagna di notte. Sì, e cosa vuoi? Domani, no, come finisce mia figlia, come c'è la parrucchiera, ma bene, si la busso. Aspettate. E chi è la musica tu? Qui c'è Antonello. Vediamo se mi ascolta adesso Antonello. Mi ascolti Antonello? Antonello. Non lo so, Antonello non mi ascolta. Tony, tu mi ascolti? Benissimo, ti ascolto io. Sei a fondo scala. Questa è l'antenna bianca, ho messo. Non saccio. Già è buono come segnale tutto quanto. Comunque, Marino, si è assentato, boh? Siano già assentato. Tutto assentato, tutto sfarfagliato, insomma. Infatti. Aspetta che cambio antenna e mi dici se mi ascolti meglio con questa o con quell'altra. Registra, mi fa memoria. E Beto, che differenza c'è? Ma per me hanno avuto tutte e due versioni. Sei sempre a fondo scala. È un antennino, è un giocattolo che... Infatti, è così. Marino se mi risponde. Marino! Hola, mi sentite? Ehi, che ti sentiamo, avanti. Poco fa mi si è aperto il box, scusate, stavo la musica alta. Non ho capito chi sei. Io sono Bacchisi in compagnia di Tore. Tu chi sei? Antonio sono. Antonio, buona serata, la prima volta che ti ascolto. Da dove stai volando tu? È come la prima volta che mi ascolti, Bacchi, già mi conosci. Antonio Bombolo sono. Antonio Bombolo, sì, dai. Già ti ascolto, ti ho già ascoltato. Insieme con Tore sono, Antu. Riprendi, fa girare per Tore. Ehi, capa, salutoni Tore. Buonasera, mi senti? Sì, ok, che ti sento, a voglia. Ciao, buonasera Bombolo. Ehi, capa Roger, buonasera anche a te. Vediamo Marino se rispondo. Oh signor Marino! Signor Marino, se l'ha mangiato il coso, il cucciuccio se l'ha mangiato. Sicuramente. Capo, un attimino di bianco. Riprendo dopo, ok? Ok, Anto, siamo qua. Attendi pure, fa quello che devi fare, poi già siamo qua. E Graziano che fine ha fatto con Tore? Ha detto che si assentava, boh, non so più niente si è uscito. A me beh, si è sparpagliato, l'ho assentato. No, deve essere entrato nell'ufficio, come ti dicevo. Ah, ecco, e dunque sta facendo la cosa. La bolletta stava facendo, la bolletta d'accompagnamento. Aspetta, che bolletta, O sta facendo la bolletta di scarico o di carico? Ma non lo so, tu. Io gli accatta che andiamo bene. Cosa ha concluso, signor Bacchi? Rosetto! Che adesso meglio va. Non lo so se ascolti a Bacchisio. Non lo so se mi ascolta lui, perché adesso sto usando l'apparato grande. Lui è esso, non sono compattabile. Guarda adesso, ma Antonio, mi ascolti? Sì, segnale 5, sei qua. Radio 5. Segnale 5. Tu devi pensare che sto andando con un antennino. Stai scendo bene. Non è che stai scendo male, stai scendo benissimo. E il barrado? Il barrende. Vabbè Antone. Dimmi caro. Cazzo, da casa non riesco a sentirti, almeno da qua riesco. Se a passeggio al centro della piazza mi senti per forza. Capito? E c'è l'antenna girata tutta sul bianco, bisogna che aspetta adesso una bella giornata in modo da poterci salire e togliere il motore, perché è il problema di motore. E la metto fissa come da prima. Ave! Siete bassi. Antonio, devo motorizzare la mia, ci devo mettere il motore della macchina per farmi la direttiva. No, c'è un motore di direttiva, lo stanno dando, devo andare solo a vederlo. E devo chiedere quanto ne vuole, più che altro. E c'è anche la direttiva, c'è una 22-20, c'è. Capito? E quindi sono in cerca di staccare questa qui, che pesa che te trovo, e agganciarmi direttamente quella con motore, col contro box e tutto. Faccio i fuori molto più giù dove c'è la mantova, in modo da poterla girare, capito? Da una parte all'altra, e almeno la metto in orizzontale e parlo con tutti. In orizzontale, non è la cosa, le femmine, non è in verticale. Adesso è in verticale quella che ho io, da 12 elementi mi pare che è in verticale, tanto che è omodirezionale. Invece se la metto in orizzontale, faccio il puntamento per dire appunto in Liguria, parlo tranquillamente con la Liguria, capito? In diretta, oppure la punta in Corsica, parlo con la Corsica. Il problema è solo cercare di, con la bussola, di registrare bene il coso, quando piazzo il motore, capito? Sono inutile. Magari tu pensi di aver puntato giusto 30 gradi per dire est, e magari sia a nord, hai capito? Sì, ma non ce l'ho. Una volta che ho la bussola, poi ho la perimetria del coso, riesco a regolarmi da una parte all'altra, capito? Adesso devo piazzarmi anch'io la direttiva, però senza motore. Ho preso una negra ci metto una negra lì sul terrazzo e gli dico destra, sinistra, via dicendo, capito? E guadagni di più. Ah, così sì, c'hai ragione, non è che c'è. Aspetta un attimo che guarda una cosa. Che boccia. No, già è giusto. Pensavo che fosse la limitazione che mi stava. Mi si aspetta per attiva da solo, poi si è acceso. Invece già era giusto la limitazione. Ma se ti porto una radio, Antonini, la puoi guardare. Il fratello di quello che si è rovinato, te lo ricordi? Giocattolo, lo chiamiamolo. Esce basso di radio, cosa si può fare? Antonini è caduto. Non si resta accadere alla radio. No. Io ci dico una cosa, una bufala di fumo. Oh, adesso mi ascolti. Non si aspetta per la chiave da solo. Adesso ho controllato lo spinotto. Fammelo vediamo un po' di risalire al trim dell'audio in trasmissione. A meno che non voglia regolato dal menu. Controllato, provate ad entrare nel menu dell'apparato dove c'è scritto uscita audio. No, non ne capisco un accato. No, io pensavo c'era qualche trimmer, qualche cosa, l'ho aperto ieri notte, è ancora aperto. Adesso c'è qualche trimmer, non c'è un piffero, c'è una batteria e buh. Lo so, già me lo ricordo, era vuoto dentro quell'apparato lì. L'unico trimmer dell'audio, cioè non trimmer, l'unica cosa che c'è è un transistor, quello che dava l'audio in recensione, capito? Vicino al coso. Sì, ma non ne ho visto neanche io, né sopra né sotto, mi pare. L'unica è entrare nel menu, capito? Provare dalla tastiera e provare a entrare nel menu. E ci dovrebbe essere l'uscita audio senz'altro. Capito? No, non lo so. Non so perché in datazione dice 10 watt. E poi non è neanche un bidet esce. Già te lo porto, una di queste sere mi metto la strada sotto il culo e ci vengo. Prova, già ti faccio uno squillo. E va bene. D'accordo, facciamo così. Non c'è problema. Avanti, Tore. Sì. Cosa ti serve, Antone? No, oh, per il momento niente. L'unica cosa sarà quando mi porta l'apparato, che piano piano, siccome se non mi ricordo male, era tutto in inglese, mi tocca farmi fare il coso. Vedendo un po' cosa diavolo c'è scritto, qual è il menu dell'audio. Sì. È sempre tutto scritto in inglese, allora in inglese non è master game. Sì, vabbè, ci sarà scritto qualche cosa in inglese dell'audio, penso che ci sia. Non penso che sia così difficile. Perché altro è dal menu, capito? Ci sarà scritto Mickey Game, capito? E quindi da lì si farà la regolazione del coso, della potenza in uscita dell'audio. Invece quella power dovrebbe essere la potenza, ci sarà la potenza minima e la potenza massima. Sì, certo, andiamo via, andiamo. Oh, il maestro ci vuole, non è il mestiere mio. Il mio mestiere era fare i pavimenti, dunque non ti so dire altro. Ah beh, i pavimenti è una cosa diversa, oramai. Già ne ho fatti anche io pavimenti quando papà aveva sfasciato la cucina e il bagno in via di Sito, capito? Ho fatto il manovale insieme al muratore, quindi ogni tanto veniva già, mi faceva fare qualche pezzettino di pavimento, non lo sai, Baromi. Vabbè, cioè se dico con lei, sbagliando si impara, eh? Ah, quello sì, ce lo credo. Poi per già si conosce un apparato, quando comincia qua avendo una volta, due volte, tre volte, alla fine trovi subito tramite il menu cosa devi toccare. Io questo non lo, figurati, da quando c'ero detto io non l'ho mai regolato. L'ho lasciato come me l'hanno dato e non l'ho già toccato. Anche perché se faccio la regolazione la faccio quando c'è un microfono amplificato. Allora mi guardo il menu, mi guardo del libricino e da lì arrivo subito dove sono le regolazioni dell'equalizzazione dell'audio. Perché io posso equalizzarmi, capito qua? Mettere toni alti, bassi, medi. Ma vedi, sempre quello perché uno che capisce qualcosa di elettronica, uno tanto come me non ci arriva, neanche se tu gli apri la testa in il 4. Da chi uno è tonto, non ce l'ha a fare. Vediamo se c'è Tole, se è ritornato. Tole! Sì, sono sempre qua io. Ha chiamato Antonello, non hai risposto. Sì, io non ho risposto. A me Antonello mi sembra stia dicendo bugie, Tole. Allora. cosa vede? Ieri me ne sono andato a parlare nel canale 7 spagnolo, me ne sono andato insieme a Giuseppe Leoncino, era entrato uno della Catalogna a parlare con me. mi ha salutato a me, a Giuseppe, poi siccome non è che capiva molto italiano ha preso e ha chiuso, ci ha salutato. Ah, frequenze alte? Ah, da telefonino direttamente, quello è Media Civitale, che sono a poter andare in quei canali Italia 1, Italia 2, Italia 3, fino a Italia 15, sono direttamente in quei, diciamo, sono in Spagna, e sono andato in Spagna 1, Spagna 2, fino al canale 7, siccome nel canale 7 parlavo con qualche spagnolo ogni tanto, perché sono gli unici che ti fanno entrare e ti fanno parlare. Allora, con Giuseppe abbiamo parlato quasi una mezz'oretta, poi ne sono entrati in due, ci hanno salutato e poi sono andati via. Ah, ci ho compreso. nel canale Alfa, da, mettendo l'altro dove vai con il coso vai, a Giocompriso. Niente, nemmeno, ci metti nazione, capito? Per dire, metti Spagna e ti appaiono i canali spagnoli. E parli con loro. Ho parlato, sono gli unici che ti fanno modulare sono proprio gli spagnoli. Tedeschi neanche a parlarne, brasiliani ti proprio ti bennano, ti parlano male e ti ci mandano a cagare. Invece gli spagnoli sono gli unici che sono tranquilli. Lo so perché ci ho parlato anch'io, ci ho parlato con uno, ed è tranquillo. E vabbè, si prende già il bacchì. Ehi, ehi, parla spagnoli. Sul canale 7, vado sempre io. E sono gentilissimi, sono le persone gentilissime, veramente. Ia, è così. Marino, non si è sentito, Tore? Chiama Marino, vado un po', lo voglio sentire, se mi ascolta. Attento, Marino, Marino, ti sei assentato tutto sbagliato. No, nulla, nulla. Graziano è ancora facendo la bolletta di scarico. Non ho finito ancora di fare sta bolletta. Graziano, è finito di fare la bolletta. Riprendersi, Tore. Sì, signor Bacchi, e allora? Adesso te c'è ma Graziano. Graziano! Da va, non ti rispondi. Stava cucinando, senz'altro. No, devo andare a fare la bolletta di scarico. Quella di carico ancora no, quella di scarico la stavo facendo. Allora, blu blu. Aspetta, aspetta, 10 minuti. Mi sto controllando la roba da mangiare, già rientro fra poco. Mangiare Antonello, non mangiare Antonello che ingrassi. E io adesso già faccio la cura. Capito? Come cominciano a chiamare dall'ufficio di collocamento a vedere cosa voglio fare con il trombatore. Sì, ma bel mestiere quello lì. Bel mestiere, capito Aitore? Ehi, signor Bacchi. Ehi, ehi, a to. Allora, tutto va bene. Sì, è grande che andiamo a mare. Riusci. Che voglio vedere come la fai. Sì. Un giorno che salgo su, ne riparo e la costruisco, poi vediamo. Sono curioso guarda, di vedere questa, la costruzione, a vedere un po' se possiamo fare qualcheduno. Se no compriamo un'antenna di coso, mi allarga banda, di un televisore, ma che ho preso qua? No, no, no, io ne ho una. Di quelle, te lo ricordi, quelle antenne che si mettevano dentro casa che hanno l'alimentazione a 12 volt o 220 e hanno le due griglie che si girano. Ah, quelle, ho capito, ma io non ti sto dicendo quelle lì. Ce n'è una a larga banda che parte da 10 cm andando fino a 60 cm i radiali. Oh, una c'è su da noi, l'avevo messa da noi. È una di quelle lì, sto dicendo io. Quale funziona in coso? In UHF. Bisogna avere la frequenza però, Tore. Questa funziona in UHF. Bisogna vedere la frequenza, se la copre. Ho capito, la bricca le antenne lì. E anche la bricca come ci sono quelle antenne. Io infatti l'avevo presa lì. E infatti io la volevo prendere e provarla, vedete, tanto costa una giabidura. 10 euro, 9 euro e qualcosa costa, 10 euro dai. L'ho visto l'altro giorno. Sì, e provarla a vedere con il coso, con i. Come ti si chiama? A misurare le stazionarie, a vedere se arriva cose di stazionarie, mettendogli il barilotto suo, però con il cavo RG8, a vedere. Staccare con il barilotto suo, io non ho l'idea. Io quella lì ce l'avevo e l'ho data a Gianni, il mio vicino di campagna, perché a 70 anni l'ho data. Io ne avevo due, quella che è piazzata e un'altra. E adesso, pensandoci, ho sbagliato l'albero. E vedi, visto l'hai. Bisogna provarle con quelle lì a vedere se vanno. Non stava uscendo quello che stava cercando di uscire. Niente, nada de nada. Importante solo. Questa voglia di giocare, Tore. Ah, boh, non lo gioco, io manco lo ricevo. Io manco lo ricevo. Anzi, dove sei andato a finire? In cosa? In galleria? Perché? Adesso sentito, perché eri Pio Pio? No, no, no, io non ero quello lì. No, stavo parlando con un amico, quindi non stavo parlando poco fa. Sto parlando adesso. Ma perché c'era una portante? Nulla. Eccovi. Tore, avanti, c'è Antonio. Sì, stava chiedendo di che antenne stavamo parlando, spiegaglielo. Antenne, ma l'antenna di TV per costruire la direttiva, Antu. Bisogna provare, Tore dice che funziona, bisogna provarla, se è vero. Solo bisogna avere l'antenna per provarle. Dipende per cosa la volete usare. E quello è. Infatti ti ho detto, la frequenza non c'è, non ci siamo come frequenza, perché la TV mi sembra sia molto più bassa di che frequenza. Non è così, To? No, la frequenza della televisione sono molto più alte di queste frequenze qua. Ah, più alte sono? Sì, sono più alte, le frequenze del televisore sono più alte, sì. Aspetta, voglio leggere l'antenna che ho io qua della televisione. Già si vede che c'è all'altezza dell'uomo. Ma c'è scritto qualche cosa? Ma io penso proprio di sì, E tutto sta a provarle, ecco cosa è. Provarle e vedere se escono bene. Bisogna provarle, sì. Ok, io vi devo lasciare, se ci sentiamo dopo. Ok, che mi hanno chiamato. Ok, ciao Antu. Alla prossima. Ciao ciao. Non c'è scritto niente, non so. No, non c'è scritto nulla. No, no, no. Solo che sa, 1, 2, 3, 4, 5. 5 radiali da 20 cm l'uno. Poi ne ha uno da 10 e più c'è il ballon. Bisogna provarla, bisogna vedere se funziona. Non ne ho altre, se il capo di antenna mi muore, mi metto le cose a capo. Andiamo. È una cosa impossibile fare qui, vedo l'antenna a disposizione e via. Ma anche l'antenna vecchia si può provare. Sì, ma chi? Ha posizionato una cosa del genere, buio. Ma pilotarla, cosa deve muovere? Pure un rattore che costa un saccaccio di denaro. No, io se la costruisco, la compro, mi prendo una negra in affitto, la siedo sul terrazzo, dico, lascio il baracchino, dice destra, sinistra, capire. E mi regola lei. E andiamo. Catta, andiamo. Avanti, trombetta. No, ha chiuso. Coso? Antonio ha chiuso. Sai trombare bene? Dove c'è il trombatore? Sì, la sono tromba. Ma sai cosa dico? Io lo so. Me ne scendo giù e me ne andrò a mangiare. Prendo le medicine e poi si mangia. Tore, ci sentiamo domani, fatti vedere. Sei bandito, sì. Saluta la signora, a domani se coincide, saluta anche Antonio, buonasera Antonio, e buonasera anche agli ascoltoni, pochissimi in quell'istante, passa in QRT, ascolto il finalino e poi chiudo, avanti Tore. Sì, ok, ciao Bacchi, ci sentiamo domani se tutto andrà bene, andrà bene, là. Ok, ciao Tore, ciao. Sì, ciao Bacchi.